Il sole non sorge più, hanno spento il sole, buio qua giù, il sole, sole, il sole non c'è più. Caro Psycho Bill, ti scrivo ma non rispondi mai. Caro Psycho Bill, con il moschito scuri il cielo. Caro Psycho Bill, vuoi spegnere il sole? Il sole, il sole. Non saranno più le primavere con i ciliegi in fiore. Non ci saranno più le estati per abbronzarti al mare. Non ci sarai neanche più tu. Il mio sole ha illuminato il mondo, ha scaldato, alimentato, senza mai chiedere in cambio niente. Solo un demente può volerlo spegnere. C'è solo un criminale e vuole spegnerlo. Caro Psycho Bill, incriminato e ricercato. Caro Psycho Bill, non puoi oscurare il cielo. Caro Psycho Bill, se tu vuoi spegnere il sole, il sole, il sole, il sole spegnerà te. Non ci saranno più le primavere con i ciliegi in fiore. Non ci saranno più le estati per abbronzarti al mare. Non ci sarai neanche più tu. Il tuo sole ha illuminato il mondo, scaldato, alimentato, senza mai chiedere in cambio niente. Solo un demente può volerlo spegnere. C'è solo un criminale vuole spegnerti, oh sole, ha illuminato il mondo, l'ha scaldato, alimentato, senza mai chiedere in cambio niente, solo un demente può volerlo spegnere, c'è solo un criminale, vuole spegnerlo.